Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, dalle vignette al romanzo, Vauro Senesi racconta storia di una professoressa. Con la cultura si mangia, a Milano gli Stati Generali. Le guide ai ristoranti per il 2014. Si intitola Storia di una professoressa, pubblicato da PM ed è il romanzo firmato da Vauro Senesi. Vauro sicuramente conosciuto più con il suo nome di battesimo che con il suo nome e cognome, perché Vauro, lo ricordiamo, è uno dei vignettisti più famosi in Italia. In questo caso però è anche un romanziere. In questa Storia di una professoressa parla del rapporto di una bambina, che poi diventa ragazzina, poi donna, insomma, e il suo insegnante. E allora, visto che si parlava di scuola, ho preferito non fare io direttamente questa intervista a Vauro e mi sono rivolta alla collega Maria Piera Ceci, che, come forse ricorderete, si occupa spesso su Radio 24 di tematiche relative alla scuola. Non si tratta ovviamente di un saggio, ma assolutamente di un romanzo. Ma visto che Maria Piera Ceci è più sensibile a questi argomenti, ha intervistato lei Vauro Senesi e innanzitutto gli ha chiesto com'è nata l'idea di questo romanzo. L'idea è molto semplice, nasce dalla voglia di raccontare la scuola italiana con tutti i suoi disastri, con tutto quello che la scuola italiana ha subito e sta subendo, Italia, eccetera, eccetera. Di raccontare insieme alla scuola italiana, e credo che questo sia importante, questa parola insieme, la società italiana, perché una società è la scuola che ha. In realtà, non la società futura, il presente della società è la scuola. Ovviamente la scuola si proietta nel futuro, però di raccontarla mettendo come protagonista, ed è l'insegnante di cui il libro tratta, Esther, la professoressa Esther di cui il libro tratta, una insegnante, una donna che affronta l'insegnamento come affronta la vita, con una grande passione, con una grande convinzione, talmente grande che a volte potrebbe sfiorare il fanatismo, ma di questi fanatismi, proprio per quella che è stata e che è la situazione della scuola italiana, e ripeto, di riflesso della società italiana, forse ce n'è un grande bisogno. Credo che insegnanti come quella che io cerco di raccontare nel libro siano la risorsa più grande che ancora la nostra scuola e quindi, ripeto, la nostra società ha. Sì, perché Esther è davvero una donna, è un'insegnante appassionata, ama moltissimo i suoi ragazzi e invece è circondata da altri insegnanti che non sono proprio delle figure negative, perché poi alla fine scavando non sono delle persone cattive, sono forse un po' disilluse. Vedono anche un po' questi ragazzi come, no, si sente tanto dire oggi, questi ragazzi oggi non hanno valori, non capiscono niente, li vedono un po' come, non dico come nemici, ma insomma... Forse li vedono come, sì, non come nemici, ma li vedono... Non li capiscono più, senza quasi ammetterselo, con un grande timore, il timore di rispecchiarsi in questi ragazzi. Quando ormai è diventato un mantra, si accusa la generazione attuale e qualche generazione precedente di giovani di non avere valori, di non avere entusiasmi. Beh, spesso proprio chi rivolge questa accusa è il primo ad aver invece ceduto alla disillusione, dalla disillusione al cinismo il passo è molto breve. Insegnare è un rapporto che presuppone la volontà generosa di offrire qualcosa all'altro, ed è l'insegnante, cioè colui che lascia il segno. L'etimologia della parola stessa è bellissima, secondo me, proprio questo è lasciare il segno. Se chi insegnante non ha più il senso del segno che vorrebbe o che al limite desidererebbe o si sognerebbe o di lasciare, questo segno non lo può lasciare, e l'immagine che i ragazzi gli rimandano probabilmente è l'immagine stessa che l'insegnante che non lascia segno proietta sui ragazzi. Gli insegnanti spenti non possono che avere davanti a loro dei ragazzi spenti. Ovviamente, sono non hanno che segni. Devono saper anche accendere, no? Delle passioni, delle intelligenze. La passione è un po' la chiave di lettura di tutto questo romanzo. Io credo che anche per quello ho cercato di renderla molto intensa nel raccontare la storia di questa insegnante. La passione è proprio la sua anima, il suo motore, ma la passione di insegnante è la passione di donna, una persona che è curiosa della vita fino in fondo, che non si tira indietro né di fronte alle cose molto belle, perché ci sono anche cose molto belle ovviamente, né ad altre cose che ad altri farebbero paura, ma ci si butta anima e corpo, come si diceva, e vive. La vita lascia, io scusa se mi fisso su questa idea, la vita vissuta ti lascia dei segni che non necessariamente sono cicatrici o ferite, sono segni, i segni che spesso si vedono anche sul volto di alcuni nostri anziani, di belli anziani, no? La vita lascia il segno, ecco, questa sua passione è di trasmettere ai ragazzi tutti i segni che lei che lei ha lasciato, che la vita gli segnasse, Assolutamente, disegnasse sul Paolo, nell'anima. Che ne sai tu del mondo della scuola? Come mai hai deciso di raccontare la storia, tra l'altro in prima persona, di una donna? E devo dire che c'è uno sguardo molto femminile in questo tuo libro. E come hai fatto ad immedesimarti così tanto nel pensiero, nella sensibilità di questa donna e di questa insegnante? Ma guarda, come ho fatto non lo so, io all'inizio avevo molta paura, avevo anche paura di essere un po' presuntuoso, e quindi il fatto che tu sei una donna mi dica adesso che insomma questa sensibilità femminile in qualche maniera sono riuscito ad esprimerla, mi fa molto piacere sinceramente. E infatti il libro è scritto in prima persona al femminile, nonostante che l'autore non lo sia, insomma, il sottoscritto. Esatto. Io credo che uno dei motivi che mi ha prima spinto e poi convinto a continuare la scrittura usando la prima persona femminile è proprio la passione. E questo libro è la storia di una vera insegnante, di un insegnante che tuttora insegna nelle scuole medie, e nasce da degli incontri tutti i venerdì per 7 mesi. Io ho incontrato a casa mia questa insegnante, questa professoressa, che mi ha regalato la sua storia tutta, con la passione con cui insegna, con quella stessa passione mi ha dato la sua storia. Tutta la sua storia personale, la sua storia professionale, poi è difficile anche distinguerle perché appunto sono molto intrecciate, sono molto legate. Bene, una passione di racconto così intensa, anche così drammatica, è contagiosa, lascia un segno. E a me ha lasciato forte un segno femminile. Credo che sia importante il fatto che la protagonista di questo libro, oltre ad essere un'insegnante, sia una donna. E questo segno femminile si è trasferito forse nel pennarello con cui io disegno e scrivo sempre con il pennarello. Con il tuo pennarello d'ordinanza. Sui block notes. Com'è stata la tua di scuola, Vauro? Che cosa c'è di tuo dentro questo romanzo? Qualcosa di mio c'è. Io ho fatto il maestro elementare per qualche anno, non molti anni. L'ho fatto in un momento molto felice della scuola italiana, quando si guardava, e anche le istituzioni e il mondo della politica guardavano con attenzione perlomeno alla scuola. E sto parlando degli anni in cui si cominciava a sperimentare il tempo pieno, che ora praticamente è stato abolito, degli anni della gestione sociale. Quindi per me l'impegno di maestro, di maestro elementare, e l'impegno politico, ma in questo senso progressivo, ormai dire politica sembra di dire una parolaccia, invece questa era la tensione politica che voleva cambiare le cose e giustamente metteva al centro di questa tensione ed attenzione la scuola, quindi io avevo una motivazione doppia, tripla se vogliamo. Infatti rimpiango molto, con molta nostalgia dell'insegnamento, mi piaceva molto fare il maestro elementare, poi la vita mi ha portato su altre strade, quindi c'è qualcosa di mio, molto poco di questa mia esperienza, specialmente negli anni, perché questo libro parte dalla metà degli anni 60, per quello sono 500 pagine, e arriva fino ai giorni d'oggi, no? Quindi, ma la stessa generazione c'è del la 60. Storia dell'Italia, no? Sullo sfondo, esatto. Qualche accenno, quella Ester incrocia dei fatti importanti della storia d'Italia, non so, ricordo per esempio l'uccisione di Moro, che è stato un momento particolarmente intenso anche per la protagonista, e ce ne sono molti altri, però tu non vuoi raccontare, voglio dire, il paese, vuoi raccontare comunque il paese attraverso la storia di questa... Assolutamente, ma io credo che attraverso la storia di una persona che è comunque coinvolta nella propria esistenza e quindi nell'esistenza della comunità in cui è collocata, in questo caso quella nostra italiana, sia anche un buon modo, anche se il libro non si sofferma troppo su queste vicende, di raccontare. Sì, sono delle pennellate, come delle vignette. Però sai, ecco, tu hai citato l'omicidio Moro nella sua drammaticità è stata anche, purtroppo ha rappresentato anche la fine brutale di un sogno, la fine brutale di una voglia di vivere e di praticare l'utopia e farla diventare realtà. È stata la fine della fantasia rivoluzionaria, che poi si è ridotta purtroppo ai macabri rituali brigatisti ed è diventata asfittica, non aveva più possibilità. Ha tolto ad altri anche per anni. Io spero che poi questo patrimonio invece di passione civile che quegli anni comunque hanno espresso si possa riscoprire, si possa ritrovare, si possa comunicare e direi, perché no, si possa insegnare. E come no. A chi lo dedichiamo questo libro? A tutte le insegnanti senza... E agli insegnanti, senza tappi di cera nelle orecchie come la tua insegnante che hai descritto e che hai conosciuto poi nella vita? Sì, io lo dedicherei alla vera Ester, quella che non so se in questo momento ci starà ascoltando, perché ho un enorme debito di riconoscenza con lei, perché mi ha regalato così, senza nessuna condizione, senza nessuna ipoteca, la sua storia, e la sua storia è una storia bella e molto intensa, e anche la ringrazio molto perché è stata l'insegnante di mio figlio, non l'ho scelta a caso, ed ho visto il segno che ha lasciato sul mio figlio, questo discorso del segno torna permanentemente, e poi lo dedicherei a tutti i ragazzi oltre che a tutti gli insegnanti. Ecco, non c'è niente del Vauro che conosciamo noi, o comunque molto poco, no? Non c'è la tua graffiante ironia, è un romanzo molto delicato, molto femminile per certi aspetti. Questo mi ha colpito e un po' anche deluso. Dove sei finito quando scrivevi questo romanzo? Guarda, io sono sempre stato convinto che l'ironia, anche quella più caustica, quella più acida, sia in definitiva un'espressione d'amore, che quindi nell'ironia, specialmente nell'ironia sociale, nell'ironia politica, ci sia questa delicatezza di cui parli. Io penso che si possa essere delicati essendo anche molto forti o addirittura sgradevoli, e si possa essere delicati in tante altre maniere. Non vorrei farmene mancare nessuna, c'è bisogno di delicatezza in questo mondo. Nel libro cito una frase di Majakovskij che forse richiude in sé tutto questo discorso, è una frase che l'ho messa nel libro perché mi piace molto, che dice: il mondo non è stato attrezzato per l'allegria, la gioia va strappata a viva forza. Questo era Vauro Senesi, ora in libreria con il romanzo Storia di una professoressa, pubblicato da PM, ed era intervistato da Maria Piera Ceci. Momento di parlare del domenicale del Sole 24 Ore che sarà domani in edicola. Oggi lo facciamo in modo un po' particolare, nel senso che nel domenicale si parlerà molto degli stati generali della cultura che si sono svolti giovedì a Milano, appunto nella sede del Sole 24 Ore, perché sono organizzati appunto dal nostro quotidiano. Si è trattato della seconda edizione. La prima edizione c'era stata l'anno scorso, era stata, come dire, un po' una sperimentazione nata sulla scia del famoso famoso manifesto per la cultura che era stato pubblicato nel febbraio del 2012 proprio dal Sole 24 Ore. In questa occasione c'è stata appunto l'opportunità di chiedere proprio al governo, di fare al governo alcune richieste, per esempio gli sgravi fiscali per chi investe in cultura, meno burocrazia per chi deve portare avanti iniziative culturali. E poi c'è stato anche un intervento del Presidente del Consiglio Letta in videoconferenza da Roma, che ha lanciato una sua proposta, oltre ad accogliere alcune proposte che erano state fatte appunto dalla platea. Ha annunciato che a partire dal 2014 sarà scelta ogni anno in Italia una capitale della cultura, quindi una città che organizzerà eventi culturali per un anno e dove far confluire naturalmente finanziamenti pubblici ma anche privati, perché insomma il Presidente del Consiglio ha sottolineato che gli imprenditori locali non devono investire solo nelle squadre di calcio ma devono investire anche nella cultura del proprio territorio, perché lo ricordiamo, investire in cultura è importante. Ormai è stato provato che il PIL, quindi il prodotto interno lordo, è direttamente proporzionale, per esempio, all'indice di lettura di un paese. Oppure durante gli Stati Generali della Cultura è stato fatto un esempio molto, molto concreto, diciamo, su un euro investito in cultura, in Italia se ne guadagnano 4. Allora facciamo finta che di questo euro 50 centesimi siano messi dallo Stato, 50 centesimi siano messi dai privati. Si arriverà dunque a guadagnarne 4, ma siccome la metà di questi famosi 4 euro di fatturato andranno nelle casse dell'erario, si avrà questa situazione. Lo Stato ha investito 50 centesimi e alla fine nelle casse dell'erario ritornano 2 euro. Quindi insomma devo dire che gli investimenti in cultura convengono proprio dal punto di vista economico. Ma ritornando appunto agli Stati Generali della Cultura, direi che a questo punto la parola va a Roberto Napoletano, che è il direttore del Sole 24 Ore, ma anche di Radio 24, e che è stato un po' l'ideatore di questi Stati Generali della Cultura. Sul piano fiscale, sul piano dei vincoli burocratici, sul piano cioè di tutto ciò che non costa e a cui è difficile dire no, noi abbiamo il dovere di pretendere che si faccia e che si cambi. Noi abbiamo posto il tema della cultura non come uno dei temi per lo sviluppo di questo Paese, noi abbiamo posto il tema della cultura come l'asse portante della politica economica di sviluppo di questo Paese. Perché per noi cultura non è solo il patrimonio artistico, museale, unico al mondo, abbandonato, il capitale dimenticato di questo paese, ma la cultura per noi non è solo questo, è questo, ma è anche ricerca scientifica, è anche ricerca tecnica, è anche tutela del paesaggio e quindi mette insieme il passato e il futuro. Si avvicina alla fine dell'anno, quindi iniziano non solo, va bene, le strenne natalizie, i libri di cui stiamo anche parlando, ma è anche il periodo in cui vengono pubblicate le guide dei ristoranti, dell'anno prossimo naturalmente. Ed è di queste guide che adesso voglio parlarvi, perché fanno parte appunto anch'esse della cultura di cui parlavamo prima a proposito degli Stati Generali della Cultura. La cultura non è solo libri, musica, beni artistici e culturali, archeologici, ma è anche enogastronomia, e anche moda, design, ricerca scientifica. E allora, guide dei ristoranti. La prima di cui vi parlo è quella di Identità Golose. È arrivata la 7ª edizione. Per la prima volta però quest'anno viene pubblicata da Mondadori Electa. L'anima di questa guida di Identità Golose è Paolo Marchi, che è anche il creatore del congresso Identità Golose, che il prossimo si terrà a febbraio a Milano. Un po' di numeri su questa guida dei ristoranti. Allora, vengono segnalati 670 ristoranti, la maggior parte dall'Italia, ma anche 186 dal resto del mondo. Fra cui per esempio Cile, Thailandia e Singapore. Le schede di questi ristoranti sono fatte da naturalmente esperti del settore, giornalisti, ma anche da chef che ovviamente recensiscono non il proprio ristorante ma quello di un altro chef, stellato o meno. Che cosa mi piace particolarmente di questa guida? Beh, il fatto che, per esempio, mette in evidenza con un simbolino lì dove gli chef hanno meno di 30 anni o meno di 40 anni, ed è significativo come il 40% dei ristoranti segnalati in questa guida siano condotti da chef con meno di 40 anni, quindi direi, insomma, una segnalazione di tutto rispetto, visto che i giovani spesso nel nostro paese non hanno moltissimo spazio. Poi l'altra cosa che mi piace di questa guida è c'è scritto in ogni scheda, per esempio, cosa piace cucinare allo chef e che cosa non piace cucinare, e poi il fatto che vengono nominate anche le altre persone che si trovano in cucina o in sala. Quindi il ristorante non è fatto solo da uno chef, ma è fatto, come sempre, da un'equipe. Per la seconda guida dei ristoranti giochiamo un po' in casa, insomma, lo dichiariamo apertamente, perché vi parlo della guida dei ristoranti del Sole 24 Ore, che è curata dal nostro gastronauta Davide Paolini. Quest'anno vengono recensiti 1090 locali, di cui 144 nuovi. Che cosa mi piace di questa guida? Le curiosità, diciamo, di questa guida? Per esempio c'è il simbolino fumoir, cioè che indica i locali dove ci sono le sale per fumatori. Oppure c'è l'icona che indica i ristoranti silenziosi, cioè quei locali che sono caratterizzati da un'acustica, insomma, che permette di gustare i piatti senza essere disturbati. E non è anche questa una segnalazione da poco. Poi ci sono sempre i simboli che erano presenti anche nelle scorse guide del Sole 24 Ore, cioè gli intoccabili, i ristoranti intoccabili, quelli, insomma, intramontabili, oppure quelli vai sul sicuro. Da segnalare inoltre che da quest'anno la guida dei ristoranti di Davide Paolini sarà disponibile anche su App Store. Infine, sempre per restare nel settore enogastronomico, due proposte della Feltrinelli. In questo caso riguardano il cibo di strada. Allora, la prima è Street Food d'autore, il cibo di strada in chiave gourmand, scritta da Beniamino Nespor e Eugenio Roncoroni. Questi due sono due chef che, tra l'altro, sono titolari del ristorante Al Mercato di Milano. Sono due chef molto, molto famosi, insomma, nel loro ambiente, e hanno deciso invece di confrontarsi con lo street food, col cibo di strada però d'autore. E poi, sempre da Feltrinelli, Street Food Heroes, la guida al migliore cibo di strada italiano, a cura di Marco Rosati, che è un esperto di agroalimentare, che ha fatto concretamente un giro fra i migliori chioschi d'Italia, insomma, dalla piadina al panino con la salsiccia, alla polenta alla spina, oltre, naturalmente, in Italia non può mancare la solita pizza. Con le segnalazioni delle guide per i ristoranti 2014 si chiude anche questa puntata del Cacciatore di Libri. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Come sempre, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.